Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio e da Deborah Rosciani, una buona giornata a tutti. Vi sarete accorti che da lunedì scorso siamo partiti a Salva Danaio con una nuova rubrica, una rubrica sui temi del risparmio gestito. Vi abbiamo messo a disposizione una segreteria telefonica che risponde al numero 800 28 12 12, dove da qualche giorno state lasciando su nostra sollecitazione le vostre domande sui temi del risparmio. In pratica la sollecitazione che vi abbiamo mosso è: quale domanda vorreste fare al vostro consulente del risparmio, quindi il vostro consulente finanziario, che non avete mai fatto, che avete pudore a fare per qualunque ragione. E allora, perché abbiamo iniziato questo percorso? Perché ad inizio aprile, il 6, il 7 e l'8, si terrà a Milano la seconda edizione del Salone del Risparmio, il più importante evento italiano dedicato al settore del risparmio gestito, organizzato e promosso appunto dall'industria di categoria, dall'associazione che raduna tutte le SGR d'Italia a suggestioni. Siccome il Salone, oltre ad essere una vetrina per le società, vuole essere principalmente un modo per avvicinare risparmiatori a questi strumenti di investimento, dopo c'è da dirlo e riconoscerlo la larga disaffezione che li ha colpiti negli ultimi anni, oggi vi anticipiamo i temi della seconda edizione del Salone, cercando di capire anche quali sono le vostre curiosità più diffuse sull'argomento. Tra l'altro c'è anche la novità importante di cui abbiamo avuto modo di parlare a Salva Danaio nelle scorse settimane, che è la nuova tassazione sui fondi comuni di investimento introdotta dal recente decreto mille proroghe. Quindi cosa cambierà nei prossimi mesi anche in relazione a questo? Tanti temi da affrontare stamattina con Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni, qui con noi a Salva Danaio. Benvenuto. Grazie mille, buongiorno. Anzi, bentornato, perché era da un po' che latitava dai microfoni della nostra trasmissione. E allora, oltre alla segreteria telefonica che vi ho detto, che continua a funzionare da qui agli inizi di aprile, perché noi continuiamo ad andare avanti nella raccolta delle vostre domande che poi selezioniamo e a cui diamo risposta con i nostri esperti nelle prossime trasmissioni di Salva Danaio, tra l'altro ne abbiamo presa una anche per oggi, potete però oltre a questo anche utilizzare il consueto canale di comunicazione con noi, che è l'800 24 0024, per intervenire in diretta questa mattina. Ci potete scrivere al 349 238 6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Allora, prima di cominciare la nostra conversazione con Fabio Galli, andiamo a dare un'occhiata anche alla borsa, perché in questi giorni è ritornata a preoccuparci. Un altro evento del tutto esterno, un po' come è successo per la crisi libica, ha travolto di nuovi listini di tutto il mondo. Ovviamente un fattore del tutto disatteso, perché già la crisi libica nessuno la immaginava, la crisi del Maghreb, la crisi del Nord Africa qualche settimana fa. Figuriamoci questo devastante tsunami e il terremoto in Giappone. Di fatto però anche questo ha travolto i listini negli ultimi giorni. Ieri è stata una nuova seduta molto pesante per l'Europa. È stata negativa anche per Wall Street. Stamattina invece il Nikkei a Tokyo è riuscito a mettere a segno un importante recupero, più 5,68%, quindi tutti i titoli che erano scesi molto negli ultimi giorni sono stati riacquistati prontamente da tutti gli investitori. Invece questo rimbalzo non sta riuscendo in Europa. C'è un calo di Parigi dello 0,87%, Francoforte si sta muovendo sulla parità, Londra meno 0,87%, Milano meno 0,73%. Cosa succede qua in Europa? Che siccome le brutte notizie non arrivano mai da sole, oggi Moody's ci ha messo lo zampino e l'agenzia di rating ha downgradato, ha abbassato di ben due livelli in un colpo solo il rating del debito del Portogallo ad A3, sulla base, dice l'agenzia, di una situazione di incertezza economica che si pone l'ambizione programma di governo rigoroso. L'outlook è negativo, appunto, il rating potrebbe essere quindi ulteriormente abbassato e su questa prospettiva scendono le borse europee, scendono soprattutto i titoli bancari. Infatti a Milano tra i ribassi più accentuati troviamo quello di Intesa San Paolo, meno 2,56%, Unicredit meno 1,68%, Mediobanca meno 1,37%, Popolare di Milano in ribasso di un punto. Ci sono cali di due punti anche per STM, per Buzzi Unicem, per Fiat Industrial, per Mediolanum, per Prismi anche perde un punto e mezzo, Saipem meno 1,22%. L'euro sul dollaro è a 1,39,42, ieri era risalito anche stamattina presto oltre la soglia di 1,40, poi a rideprimere l'euro è arrivata appunto la decisione di Moody's. Ieri ricordiamo che la banca centrale americana ha lasciato i tassi fermi negli Stati Uniti in questo range tra appunto lo 0 e lo 0,25%, e direi che queste sono le più importanti notizie della giornata, con il WTI, il prezzo del petrolio, che a New York è sui $98 libreria a Londra a 108. Noi abbiamo detto i migliori titoli di Milano, magari per accontentare gli ascoltatori che vogliono anche le buone notizie. Abbiamo Parmalat più 2,77, Lottomatica più 1,28, Ansaldo più 1,18 e Enel Green Power più 1,16% sulla scia di tutte le società che operano nell'ambito delle rinnovabili, che stanno letteralmente approfittando cinicamente della crisi giapponese. Lasciamo la borsa, ma in qualche maniera rimaniamo in ambito mercati, perché per chi vuole puntare sul mercato, su quell'azionario, su quell'obbligazionario, oppure per fare un asset allocation diversificata, sceglie il fondo comune di investimento, e questo strumento di risparmio appunto sarà il grande protagonista anche quest'anno del Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni il 6, il 7 e l'8 aprile. Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni, dicevamo seconda edizione. Ricordiamo un po' qual è stata la genesi di questo appuntamento, che cosa vi ha mosso nel voler organizzare lo scorso anno questa iniziativa, come andò e soprattutto che ambizioni avete quest'anno? Il Salone nasce perché gli italiani hanno, per fare una, così, condurre un paragone, due grandi beni, due grandi asset: i beni culturali e il risparmio. Trattiamo male un po' entrambi, nel senso che non ce ne prendiamo troppa cura, forse qualche volta li dimentichiamo. Il Salone vuole essere un'occasione per discutere, per dare un'idea di quali sono le possibilità di investimento, il modo per far fruttare i propri risparmi, per gestirli bene, per scegliere con cura il proprio consulente. Nasce l'anno scorso con l'intento di portare davanti a una platea molto ampia tutta l'offerta che c'è di prodotti di investimento, di risparmio gestito. Devo dire che il successo ci ha un po' travolti, nel senso che ci aspettavamo sì qualche migliaio di partecipanti, ne abbiamo avuti più di 7.000 in borsa. Quest'anno, anche per rafforzare il carattere, diciamo, è in qualche modo un'occasione appunto di crescita, di formazione, di educazione di tutti noi, di tutti coloro che se ne occupano e di chi invece ha del risparmio da investire, l'abbiamo organizzato in università, alla Bocconi. Ci ha fatto molto piacere che la Bocconi abbia deciso di accogliere un evento così importante di 3 giorni. Ci sono tutte le premesse per battere il record dell'anno scorso, gli iscritti sono parecchie migliaia, il salone è più grande dell'anno scorso, si articola su 3 giornate da mercoledì a venerdì. Credo che ci sia una tale ampiezza di conferenze, di seminari, di eventi, per cui chiunque si occupa di risparmio, direttamente, indirettamente, per curiosità, per professione, può trovare qualcosa che lo stimolerà. Infatti, tra l'altro, come dicevo in apertura, non solo una vetrina per l'industria di settore, per le società di gestione di risparmio, per tutte le SIM appunto, che sono quelle aziende che gestiscono per noi i nostri investimenti, ma anche un modo appunto per avvicinare la gente, per avvicinare i piccoli risparmiatori, gli utenti finali peraltro di questo prodotto, di questi prodotti, al tema del risparmio in termini più generali. Quindi ci saranno, oltre al fatto che ovviamente tutte le aziende presenteranno i loro stand per farsi conoscere, ma tutte le aziende organizzeranno anche degli incontri, saranno tutti accessibili ai piccoli, perché adesso chiaramente magari anche chi è interessato dalla Sicilia potrebbe voler venire a Milano a seguire qualcuno di questi appuntamenti. Se andate sul sito trovate facilmente, vedete le disponibilità, perché molte conferenze hanno avuto, come dicevo, un grandissimo successo, qualcuna è già addirittura esaurita. Quindi troverete, è molto facile iscriversi sul sito ilsalonedelrisparmio.com. Vedrete che è molto facile anche iscriversi e registrarsi per le varie conferenze. Portandosi dietro il badge sarà anche più facile accedere, perché l'evento appunto è preso d'assalto. Che dirvi? Partecipano le scuole, ci sono momenti dedicati alle scuole, ci sono dei concorsi. L'anno scorso l'Accademia di Brera ha interpretato in maniera molto creativa l'idea del risparmio, dell'investimento, con delle opere d'arte. Quest'anno ci saranno molti spazi dedicati al web, alla comunicazione su internet, perché questi sono strumenti del futuro. Il salone è anche un'occasione per il sistema finanziario di confrontarsi con quelli che sono i temi del mondo più ampio. Quindi, per esempio, avremo in alcune conferenze avremo dei contributi da Google, altre aziende, avremo un po' una finestra, lo spaccato su come le persone si informano, come agiscono, come prendono decisioni, perché ovviamente purtroppo abbiamo degli esempi, secondo me, molto molto difficili anche dal punto di vista emotivo. In questi giorni abbiamo delle immagini molto forti che hanno delle implicazioni ovviamente anche sull'andamento azionario, sul corso dei nostri investimenti, sul prendere decisioni. Ho avuto amici che mi hanno chiesto cosa devo fare dei miei investimenti in Giappone o al momento in realtà di credere che sarà un'economia che si riprenderà in fretta. Ora, queste sono tematiche, in realtà la finanza è molto molto più vicina alla vita e al modo di vedere quello che succede in un mondo appunto che si dice spesso globalizzato, ma che è un mondo che ormai ci lega. 30 anni fa era impossibile avere questa sensibilità diretta per quello che accadeva dall'altra parte, non solo del Mediterraneo ma addirittura del mondo. Quindi occuparsi di finanza, sia che lo si faccia dal punto di vista del nostro interesse personale, sia che lo si faccia perché si ha una famiglia da mantenere e si vuole dare ai propri figli una certa prospettiva di studio, eccetera, sia che lo si faccia professionalmente perché siamo pagati, ci sono veramente, è un mondo che è in continua evoluzione e la quantità di informazione da elaborare, capire, su cui è enorme, anche gli esperti a volte hanno bisogno di fare il punto, quindi il salone è uno strumento che... Anche nel confronto diretto, insomma. Assolutamente, proprio. Sì. No, tra l'altro, proprio a proposito di quell'aspetto che mi citava prima, già voglio andare nella prima pausa, ma magari ce la facciamo ad iniziare solo ad accennare un po' a questo tema. Un successo oltre ogni aspettativa lo scorso anno, anche in termini di partecipazione di pubblico, ma che cosa avete percepito? Quali sono le curiosità più forti che un piccolo risparmiatore, appunto, che piccoli risparmiatori hanno su questo mondo, perché poi ha avuto anche le sue difficoltà e molti sono usciti dai fondi di investimento negli ultimi anni. Certamente la crisi che ci ha travolto non ha aiutato, sono state fatte delle scelte di investimento precisi, mantenere assolutamente liquido il risparmio, per cui mi chiedo effettivamente che cosa li abbia anche mossi in termini di ricerca di informazioni presso il salone. Sì, la sensazione è che le persone cerchino un punto di riferimento, insomma vogliono capire di chi possono avere fiducia. E quindi il contatto diretto anche fisico, che è a volte più difficile rispetto a quello che è l'informazione finanziaria, la vediamo in qualche modo mediata dal sistema dei media, dei giornali, della stampa, non c'è il contatto diretto fisico con le persone che si occupano dei nostri risparmi. E invece l'investimento è un'attività umana profondamente legata anche all'emotività, al bisogno di avere fiducia. Il salone produce questo, produce un contatto, uno scambio diretto, una risposta alla domanda specifica, ci si può avvicinare negli stand e capire meglio cosa sono quei prodotti, come vengono gestiti, chi sono i gestori non sono le banche, sono qualcosa di diverso, i gestori usano direttamente i nostri risparmi, li investono a nostro nome, quindi noi non diamo i soldi a qualcuno e diventano i soldi, come nel caso della banca, quando noi portiamo del denaro in deposito, la banca ci garantisce di ridarci un certo tasso di interesse, ma poi con quei soldi fa delle cose per sé, fa degli investimenti per sé. Invece qui i nostri investimenti sono fatti direttamente per noi, a nostro nome, e quindi il rapporto è più stretto e più diretto ed è necessario avere questo dialogo. Allora, 800 24 00 24, vi ricordo il numero verde per intervenire questa mattina, fateci pure le vostre domande. Avete un fondo di investimento, lo avete continuato a mantenere in questi anni nonostante invece magari molti vostri amici e colleghi l'abbiano abbandonato? C'è qualcosa che non vi convince su questo prodotto di investimento? Quali sono le vostre curiosità? Qual è la domanda che vorreste fare al vostro consulente ma che per pudore non gli fate perché temete di essere giudicati magari degli ignoranti? Invece non c'è niente di più onesto che ammettere, come facciamo noi ogni giorno da questi microfoni, la nostra ignoranza. Allora raccontatecelo e noi cercheremo di così commentare con voi anche il vostro atteggiamento con Fabio Galli e di rispondere soprattutto alle vostre domande. Tra poco. Eccoci ritrovati insieme. 800 24 00 24 è il numero verde per intervenire questa mattina. Ma come sapete, dall'inizio della settimana abbiamo attivato un altro numero che corrisponde ad una segreteria telefonica, è l'800 28 12 12, perché attraverso questa segreteria noi stiamo raccogliendo le vostre domande, le vostre curiosità più diffuse sul tema del risparmio gestito. Come funziona un fondo di investimento? Quali sono appunto le modalità di funzionamento di questo strumento di risparmio che ancora non vi tornano? Qual è quella domanda che avreste sempre voluto fare al vostro consulente, che magari vi ha suggerito di investire in un prodotto di questo tipo, ma voi non scavate, non andate a fondo, non avete il coraggio appunto di affrontare con più chiarezza il rapporto col vostro consulente? Allora lasciateci le vostre domande sulla segreteria, noi cercheremo di rispondervi. Abbiamo già cominciato a dare le risposte appunto ai temi che ci avete posto dall'inizio della settimana. Questa mattina invece un po' tutta la puntata di Salvadanaio è organizzata su questo tema. Perché? Perché noi abbiamo abbiamo allestito questa segreteria telefonica in vista dell'organizzazione del Salone del Risparmio Gestito, in programma il 6, il 7 e l'8 aprile a Milano, organizzato da Assogestioni, che è l'industria di categoria, l'organizzazione appunto che rappresenta le SIM, le SGR, le società che appunto gestiscono i risparmi. Per noi, con noi stamattina Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni. Galli, le faccio sentire una domanda che ci ha lasciato un ascoltatore. Radio 24 e Assogestioni presentano Le domande del risparmio. Sì, pronto, buonasera, è Fasetti e chiamo da Vercelli. Volevo chiedere, fare una domanda ai vostri esperti. Ho sentito parlare di una recente riforma nel settore del risparmio gestito che ha a che fare con la tassazione. Volevo capire che cosa significhi questo e se eventualmente mi costerà di più investire in fondi. Grazie e buonasera. Salone del Risparmio a Milano dal 6 aprile. Iscriviti gratis. salonedelrisparmio.it. Vi ha presentato Le domande del risparmio. E allora Fabio Galli, il nostro ascoltatore, ci sembrava abbastanza chiaro che intendesse chiedere dei chiarimenti appunto sulla novità relativamente alla tassazione sui fondi comuni di investimento, una novità che è stata introdotta dal recente decreto mille proroghe, ma che la categoria inseguiva da un po'. In sostanza, la nuova tassazione sui fondi comuni di investimento mette alla pari i fondi italiani con quelli stranieri. È una novità di grande portata? Sì, ed è una riforma buona. Questa la possiamo chiamare una riforma buona perché non cambia l'aliquota, quindi continuiamo quando sottoscriviamo un fondo come sempre a pagare un'aliquota del 12,50. Questo in particolare resta un grosso vantaggio rispetto per esempio a fare un investimento in un titolo obbligazionario a breve o per esempio mettere i soldi sul conto corrente che sono tassati al 27, quindi rimane identica l'aliquota. Cambia vantaggio nostro di risparmiatori, perché ho anch'io i fondi, il modo di prelievo di questa aliquota. Anziché essere tassato il fondo giorno per giorno durante la vita, durante l'accumulo del rendimento, viene tassato solo nel momento in cui io vado a disinvestire. Quindi se investo per un lungo periodo, le mie tasse le pagherò soltanto al momento del disinvestimento. Questo è un grosso vantaggio ovviamente per il risparmiatore, soprattutto per chi tiene l'investimento per alcuni anni. È un vantaggio anche per il gestore, perché nel fondo non deve gestire questo pagamento dell'imposta e contemporaneamente gestire anche invece l'accumulo di quello che viene chiamato il risparmio d'imposta, che è un po' tecnicamente è una cosa che rende più difficile la gestione del fondo stesso. Quindi è una riforma buona sia per chi deve gestire i fondi sia per chi li sottoscrive. Mancano però ancora, se non sbaglio, i regolamenti attuativi e comunque diciamo siamo nei tempi, tutto entrerà in vigore dal 1 luglio, come è già stato annunciato. Entreremo in vigore, per quanto nostra conoscenza, sì, entreremo in vigore il 1 di luglio. Il passaggio al nuovo sistema nessuno se ne renderà conto, appunto perché non ci sono né adempimenti burocratici né cambiamenti nel trattamento fiscale, quindi possiamo essere tranquilli. A quel punto, come dicevo, diventa ancora più vantaggioso detenere l'investimento per un certo periodo, come oggi già avviene per i fondi di diritto estero. Abbiamo visto dai dati che quando un risparmiatore detiene per 10 anni i fondi, questa è una cosa che pochi conoscono, che è un vantaggio tutto italiano. L'imposta viene differita, il che vuol dire che su orizzonti temporali di 5-10 anni ha una sua rilevanza. Insomma, noi andiamo a pagare il 12,50 solo al momento del realizzo, e quindi in altri paesi invece si deve fare una dichiarazione dei redditi anno per anno su tutto ciò che si realizza e su ciò che si incassa. È un mondo di particolare vantaggio da questo punto di vista, che per adesso è stato salvaguardato. E speriamo che continui così. Ecco, tra l'altro, sempre diciamo all'indomani dell'approvazione del decreto mille proroghe che conteneva questa novità, ho letto un'intervista al presidente di Assogestioni, per chi non lo sapesse, a Domenico Siniscalco, una personalità appunto del mondo economico italiano ed internazionale molto nota, molto autorevole, è stato anche ministro del Tesoro, che oltre ad illustrare appunto i vantaggi della nuova forma di tassazione, sosteneva anche, ma non è l'unica personalità che ho sentito appunto su un punto di di questo genere, che il vantaggio di questo tipo di fiscalità in qualche maniera porterà, dovrebbe portare orientativamente, dovrebbe portare anche i risparmiatori a mantenere il proprio patrimonio investito nei fondi di investimento più a lungo. Per quale motivo c'è questa visione? Beh, innanzitutto perché, come dicevo un secondo fa, la tassazione al momento del realizzo fa sì che più io detengo l'investimento, più posticipo il momento di pagamento delle imposte, quindi ho questo vantaggio implicito. Poi c'è un ragionamento più ampio che il presidente e l'associazione svolgono da tempo sul fatto che noi dobbiamo imparare a valorizzare appunto quello che è forse uno dei nostri assi dal punto di vista del sistema economico italiano, cioè la capacità di risparmiare, che è messa a dura prova in questo periodo di crisi. In questi anni è messa a dura prova, è chiaro che stiamo risparmiando meno, ma risparmiamo sempre di più di molte altre nazioni. E quindi questa nostra capacità di risparmiare significa che se investiamo bene e investiamo, investire bene in parte significa anche potersi prendere del tempo per investire, quindi non avere l'idea di andare a realizzare i propri investimenti nei prossimi mesi, nel breve periodo, significa poter disporre del tempo, vuol dire avere ritorni maggiori, rendimenti maggiori, fare meglio condurre meglio la scelta. E su questo, da questo punto di vista, ci dovrebbe essere una riflessione su come modellare il sistema di tassazione per dare un ulteriore incentivo all'investimento di lungo periodo. Esiste oggi già la possibilità di usare i fondi pensione, che per molti aspetti è sottovalutata anche dai lavoratori, forse perché è mancata dell'informazione. Il vantaggio, sì, diciamo che questa rivoluzione è anche intervenuta in un momento storico, diciamo, mondiale, sì, molto molto sì, complicato, sì, sì. Per cui effettivamente sì, scoraggiava ogni tipo di iniziativa. Sì, il nostro sistema, siamo stati sfortunati ovviamente a passare la riforma previdenziale negli anni 2007, del 2007. Però è anche vero che per chi sa fare i conti, un fondo pensione è uno strumento estremamente vantaggioso dal punto di vista fiscale, soprattutto per quanto riguarda le somme che si possono portare in esenzione dalla tassazione sull'IRPEF, quindi sulla tassazione sul reddito personale. E questo fa sì che ognuno di noi, chi è un lavoratore dipendente, ma anche i lavoratori autonomi, dovrebbe fermarsi a farci insomma una riflessione. Chi non ha aderito ci faccia una riflessione, ne parli col sindacato, ne parli con promotori finanziari. Ci sono vari strumenti come fondi pensione, ci sono quelli di categoria, ci sono i fondi pensione aperti. Ci sono gli strumenti privati, ci saranno delle tavole rotonde specifiche su questi argomenti. Naturalmente la previdenza è uno dei temi che viene trattato, sarà presente anche la stessa COVIP, l'autorità di vigilanza sui fondi pensione. Ci sono diversi eventi sulla previdenza, ma perché la previdenza nei paesi più solidi dal punto di vista finanziario è poi il pilastro sul quale si costruisce il sistema finanziario. Penso a non soltanto, come al solito, all'Inghilterra, agli Stati Uniti, l'Olanda è il paese, e il Giappone stesso. Il Giappone ha dei fondi pensione molto molto solidi, molto importanti, che sono quelli che hanno aiutato lo sviluppo del sistema industriale giapponese. Certo, quello che vorrei dire, ricordarlo con grande onestà intellettuale ai nostri ascoltatori, è che a noi preme che si prenda in seria considerazione la questione previdenziale per il proprio futuro. Non ci interessa sponsorizzare un certo tipo di prodotto piuttosto che un altro, poi magari ci sono sicuramente sul mercato prodotti più vantaggiosi e dal punto di vista, diciamo, del costo, della gestione, di tanti altri aspetti. Il tema è capire che la vita media, il nostro paese, nostra, si va allungando enormemente, per cui avremo bisogno, una volta che abbiamo lasciato il posto di lavoro, quindi avremo bisogno di qualcosa che integri la pensione pubblica, perché quella non ci basterà più, sarà veramente ridotta a malapena la metà, speriamo, almeno ragionando, Galli, sulla nostra generazione, nel nostro ultimo stipendio, ma le giovani generazioni prenderanno ancora meno, per cui il tema è focalizzate la vostra attenzione, non pensate che sia mai troppo presto, perché non è mai troppo presto invece per prendersi a cuore un tema di questo tipo. Adesso andiamo in pausa, c'è Sergio da Cremona pronto ad intervenire, gli chiedo un minutino di pazienza. C'è anche un altro ascoltatore che ci chiede: vorrei investire tutto in, e mi dice il nome della società di gestione che ha scelto, che peraltro è molto importante, molto grande e molto autorevole. Come faccio a capire che non sia Madoff addirittura? Qui adesso qua stiamo mettendo in relazione un truffatore clamoroso con una società di gestione invece assolutamente importante. Detto questo, quello che mi viene da dire, intanto non investa tutto lì se ha qualche dubbio. Ma e poi vediamo, possiamo dirgli qualcosa in più anche dopo i suggerimenti per chi in viaggio. Eccoci ritrovati. Allora, il risparmio gestito, il Salone del Risparmio che si svolgerà a Milano il 6, il 7 e l'8 aprile. In vista di questo appuntamento, l'attivazione della nostra segreteria telefonica 800 28 12 12, dove ci potete lasciare delle domande sul tema del risparmio. Cosa vorreste chiedere al vostro consulente? Che cosa non avete mai chiesto al vostro consulente perché non avete il coraggio di fare? Noi continueremo a rispondervi nei prossimi giorni con i nostri esperti. Intanto oggi puntata a 360 gradi in vista di questo appuntamento, anche con le domande degli ascoltatori. Allora, prima di rispondere alla persona che prima ci diceva: io ho deciso di dare tutti i miei soldi a questa società, detta in parola in maniera appunto molto, molto brutale, come faccio a sapere che sia una società di gestione del risparmio affidabile? Allora sì, Galli, rispondiamo subito a questo ascoltatore. No, Madoff è una cosa molto diversa dal mondo dei fondi. Innanzitutto Madoff non gestiva un fondo di investimento. Quello che faceva Madoff, gestiva dei conti, era qualcosa che per esempio non poteva essere offerto in Italia. Infatti gli italiani ne sono usciti indenni dal caso Madoff. Madoff viveva nel mondo americano, dove non è prevista la banca depositaria. Quando noi investiamo il nostro denaro con un fondo armonizzato, sono quelli che possono essere offerti qui da noi, ma anche con i fondi alternativi, i fondi hedge, questo denaro non è nelle mani di una società di gestione, ma c'è una separazione tra chi gestisce i soldi, quindi chi decide se comprare il titolo A, il titolo B, in che proporzione, e chi fisicamente tiene questo denaro separatamente, che è una banca depositaria. Nella storia dei fondi di investimento in tutta Europa, non c'è un solo caso di dissesto finanziario, proprio perché il sistema è estremamente solido. Gli Stati Uniti con Madoff hanno dovuto imparare che, paradossalmente, loro, che hanno una storia finanziaria più lunga della nostra, avevano una falla perché lì la gestione, in alcuni casi, quando viene fatta su base privata, si può fare senza la banca depositaria. Il problema di questo risparmiatore non è quello di temere che la società sia una società fantasma, dove il suo problema è quello di diversificare bene il suo investimento. Se la società è una società che ha più prodotti, di pensare bene come allocare il suo portafoglio, se la singola società gli riesce a offrire un numero sufficiente di prodotti che gli dà la garanzia di avere una buona diversificazione dal punto di vista del portafoglio. Ma magari diversificare anche un pochino le società, se ci sente questo promotore siamo a posto, Galli, oggi. Però non abbiamo detto il nome dell'azienda. Ma non è una necessità dal punto di vista del sentirsi tranquilli sul fatto che ci sia un dissesto, ecco questo. Allora, andiamo all'ascoltatore da Cremona. Sergio, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Buongiorno, io volevo chiedere, faccio dei versamenti tramite PAC su fondi comuni, volevo sapere le cifre che ci sono già, com'è la tassazione in questo momento rispetto al passato. Ah no, allora intanto è ancora uguale, Sergio, perché tutte le novità entrano a regime dal 1 luglio, per cui c'è questo spartiacque molto importante dalla prossima estate. Sergio, grazie, sentiamo Fabio Galli. Sì, come dicevamo un secondo fa, stia tranquillo, il suo investimento continuerà a essere tassato a 12,50, ma avrà l'ulteriore vantaggio che, anziché essere, se lei stava usando fondi di diritto italiano, anziché essere pagata quell'imposta in via continuativa durante la vita del fondo, verrà pagata quando lei deciderà di disinvestire, magari tra qualche anno. Tra l'altro, lei, usando il sistema di investimento del PAC, ricordiamolo, che significa programmare una certa cifra mensilmente, lei segue il metodo consigliato per avere la migliore efficienza nel modo di investire. Questo è un po' come la questione della previdenza. Chiunque sappia che vuole investire una certa porzione del proprio stipendio, del proprio salario, sa che può disporre di quella cifra, valuti attentamente l'opportunità di sottoscrivere un PAC, un piano di accumulo, perché noi abbiamo visto che quando, per esempio, in situazioni di crisi come quella degli ultimi anni, chi ha usato i PAC anche sui mercati che hanno avuto i tracolli più forti, ne escono dopo 3 anni con una posizione di guadagno, perché il PAC consente di sfruttare i momenti di tracollo per continuare a investire, perché in qualche modo il risparmiatore, il PAC è, se vogliamo, chiamiamolo così, uno stabilizzatore della nostra emotività. Se noi dobbiamo decidere autonomamente quando investire, nel momento di tracollo ci blocchiamo. È una reazione emotiva normale, naturale, però, che abbiamo tutti. Preferiamo non fare altro. Con un PAC, che è qualcosa di programmato, invece questo investimento, che è come nei fondi pensione in realtà, viene fatto proprio in quei momenti di grande crisi dove sembra che il mondo stia morendo, e quindi quelle sono le migliori occasioni di investimento. Negli ultimi 3-5 anni chi ha sottoscritto PAC anche su prodotti azionari ne esce con valori che battono largamente chi invece magari aveva fatto un investimento unico all'inizio del periodo. Volevamo contattare Marco da Roma, che ci ha lasciato la sua domanda all'800240024. Poi gli ascoltatori ci rilasciano i numeri sbagliati, mannaggia, perché volevamo farle intervenire con Fabio Galli sul tema che lui pone, che in realtà è così un'indicazione prospettica che magari il Salone del Risparmio ci può dare. Marco voleva sapere come mai, o se avete pensato di estendere questa rassegna anche ad altre città. Non solo l'abbiamo pensato, addirittura questo salone doveva nascere 3 anni fa a Roma, doveva nascere per i romani all'auditorium in un contesto molto bello, in realtà anche molto costoso, per cui è stato deciso di rinviare l'investimento, ma rimane sempre l'idea, è quella di portare il salone anche possibilmente in forma itinerante. C'è una grande richiesta di essere presenti su diverse piazze, quindi noi, compatibilmente con quello che è la disponibilità di tutte le società che partecipano, che sponsorizzano questo evento, cercheremo sicuramente anche di portare il salone in giro per l'Italia. L'ultima domanda di Maria da Trento, non so se ce la faremo mai in pochi secondi perché la domanda è articolata. Maria, ce la fa al volo, grazie. Un attimo solo, buongiorno e grazie molti. Allora, io volevo sapere se i fondi di investimento con la nuova normativa e se producono plus o minusvalenze possono venire compensate con minusvalenze pregresse. Grazie Maria, era la domanda che peraltro forse si fanno anche in molti, che era anche tanto circolata, insomma, un po' come relativamente alle novità del funzionamento della nuova tassazione anche sui giornali nei giorni scorsi. Galli. Sì, certo, quindi funzioneranno esattamente come le SICAV di diritto estero, anzi sarà ancora più semplice per chi le ha offerto il fondo, la banca, la SIM, il promotore, rilasciarle il certificato nel caso lei abbia una minusvalenza, la potrà portare a compensazione nei 4 anni successivi con tutte le plusvalenze che ha su, per esempio, altri fondi o titoli azionari, quindi il sistema anche dal punto di vista della compensazione diventa più facile per il risparmiatore. Grazie, abbiamo fatto salire in cattedra oggi Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni, e adesso lo lasciamo andare perché deve ricominciare a ripreparare tutto quello che manca da qui al 6, 7 e 8 aprile per il Salone del Risparmio, appuntamento a Milano. Voi continuate a lasciarci le vostre domande all'800 28 12 12, le registriamo e continuiamo a rispondervi nei prossimi giorni. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, è stato un piacere. Salva Danaio torna domani, buona giornata. Piacenza Expo, qui si può. Vi ha presentato Salva Danaio.